Ad alta voce, leggere il Decamerone. Proemio e introduzione. Proemio. Umana cosa è aver compassione degli afflitti. E come che a ciascuna persona stia bene, a coloro è massimamente richiesto, li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hanno il trovato in alcuni. Tra quali? Se alcuno mai n'ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Perciò che dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo, oltremodo essendo acceso stato d'altissimo e nobile amore, forse più assai che la mia bassa condizione non parrebbe narrandolo si richiedesse, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne, io ne fossi lodato e da molto più reputato. Non di meno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire. Certo, non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto, da poco regolato appetito, il quale, perciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non m'era, spesse volte sentirmi facea. Nella qual noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d'alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avvenuto che io non sia morto. Ma sì, come a colui piacque. Il quale, essendo egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine. Il mio amore, oltre a ogni altro fervente, e il quale è niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evidente o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né piegare. Per se medesimo, in processo di tempo, si diminuì in guisa che sol di sé, nella mente, ma al presente lasciato quel piacere che egli è usato di porgere a chi troppo non si mette nei suoi più cupi pelaghi navigando. Perché dove è faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser rimaso. Ma quantunque cessata sia la pena, non perciò è la memoria fuggita dei benefici già ricevuti, datimi da coloro a quali per benivolenza da loro a me portata erano gravi le mie fatiche. Ne passerà mai, siccome io credo, se non per morte. E perciò che la gratitudine, secondo che io credo, tra l'altre virtù è sommamente da commendare e il contrario da biasimare, per non parere ingrato, ho me costesso proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti. Ora che libero dirmi posso, e se non a coloro che me atarono, alli quali per avventura per lo lor senno o per la loro buona ventura non ha bisogno, a quegli almeno a quali fa luogo alcun alleggiamento prestare. E quantunque il mio sostentamento o conforto che vogliam dire possa essere sia bisognosi assai poco, non di meno parmi quello doversi piuttosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto. E chi negherà questo, quantunque egli si sia non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare. Mm-hmm. Esse, dentro a delicati petti, temendo e vergognando, tengono l'amorose fiamme nascose, le quali, quanto più di forza abbian che le palesi, coloro il sanno che l'hanno provate. E oltre a ciò ristrette da voleri, da piaceri, da comandamenti dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere, racchiuse dimorano. Quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, seco rivolgendo diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre siano allegri. E se per quelli alcuna malinconia mossa da focoso disio sopravviene nelle lor menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa. Senza che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere. Il che degli innamorati uomini non avviene, siccome noi possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri li affligge, hanno molti modi da alleggiare o da passar quello, perciò che a loro, volendo essi, non manca l'andare attorno. Udire e veder molte cose. Uccellare. Cacciare, pescare, cavalcare, giocare o mercatare, de quali modi ciascuno a forza di trarre o in tutto o in parte l'animo a sé e dal noioso pensiero rimuoverlo, almeno per alcuno spazio di tempo. Appresso il quale, con un modo o con altro, o consolazione sopravviene o diventa la noia minore. Adunque, a ciò che in parte permessa mendi il peccato della fortuna, la quale, dove meno era di forza, sì come noi nelle delicate donne veggiamo, qui di più avara fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano. Perciò che all'altre è assai l'ago e il fuso e l'arcolaio. Intendo di raccontare 100 novelle. O favole, o parabole, o storie, che dire le vogliamo. Raccontate in 10 giorni, da una onesta brigata di 7 donne e di 3 giovani, nel pistilenzioso tempo della passata mortalità fatta, e alcune canzonette dalle predette donne cantate al loro diletto. Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d'amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno, così nei moderni tempi avvenuti come negli antichi. Delle quali le già dette donne che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazevoli cose in quelle mostrate, e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno conoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare. Ah, le quali cose, senza passamento di noia, non credo che possano intervenire. Il che si avviene, che voglia Dio che così sia, a amore ne rendano grazie, il quale, liberandomi da suoi legami, m'ha conceduto il potere attendere a lor piaceri. Glossario. Dunque, a poco loro che discreti erano e alla cui... Discreto è voce dotta che deriva dal latino discretus, participio passato del verbo discernere, che nel latino medievale aveva il significato, come nel Decamerone, di prudente, assennato. Soverchio fuoco nella mente concetto, da poco regolato a... Concetto. È il participio passato di concepire. Significa dunque, in una forma che restò letteraria pur durando nel tempo, pensato, concepito. È sommamente da commendare, e il contrario da biasimare. Commendare. È uno dei tanti latinismi della lingua del Decamerone. Equivale a lodare. E se non a coloro che me atarono, alle quali per avventura... Atarono. Vuol dire aiutarono. È il passato remoto del verbo atare, a sua volta derivato dal verbo aitare, che semplifica la forma latina adiutare. Al luogo, alcun alleggiamento prestare. E quanto... Alleggiamento. È sostantivo che prende origine da alleggiare, riscontrabile nell'antico francese alléger, e significa alleggerimento. In parte permessa mendi il peccato della fortuna. Amendare. Usato qui in forma riflessiva e transitiva, equivale a rimediare. La compassione della pena d'amore, che per il Boccaccio è uno dei motivi ispiratori del Decamerone, trova nel proemio un'espressione lessicale pregnante nel sostantivo noia, ripetuto ben tre volte. Noia, dal provenzale enoia, nel significato di dolore, e in particolare dolore d'amore, è parola letterariamente trasparente. Un rimando esplicito non solo al Petrarca, da cui il Boccaccio prende le mosse, e nel cui canzoniere la costellazione noia, noiare, noioso, è ben presente, ma anche ad una illustre tradizione poetica che aveva nei provenzali il suo modello archetipico. Il genere poetico della Enueg aveva avuto anche in Italia i suoi seguaci. Abbiamo dunque, subito in apertura d'opera, un assaggio di quella lingua d'amore di diretta derivazione d'Oltralpe, che è componente essenziale del lessico decameroniano. Noia insieme a gioia, e poi amistà e biltà, rimembranza e sembianza, per citare i casi più significativi. Comincia la prima giornata del Decameron. Nella quale, dopo la dimostrazione fatta dall'autore per che cagione avvenisse di doversi quelle persone che appresso si mostrano ragunare a ragionare insieme, sotto il reggimento di Pampinea si ragiona di quello che più aggrada a ciascheduno. Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose, tante conosco che la presente opera al vostro giudicio avrà grave e noioso principio, siccome è la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata, universalmente a ciascuno che quella vide o altramenti conobbe dannosa, la quale essa porta nella sua fronte. Ma non voglio perciò che questo di più avanti leggere vi spaventi, quasi sempre tra sospiri e tra le lagrime leggendo dobbiate trapassare. Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che camminanti una montagna aspra e erta, presso la quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto più viene loro piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza. E sì, come la estremità della allegrezza il dolore occhi occupa, così le miserie da sopravveniente letizia sono terminate. A questa brieve noia, dico brieve in quanto in poche lettere si contiene, seguita prestamente la dolcezza e il piacere il quale io v'ho davanti promesso, e che forse non sarebbe da così fatto inizio se non si dicesse aspettato. E nel vero, se io potuto avessi onestamente per altra parte menarvi a quello che io desidero, che per così aspro sentiero come pia questo, io l'avrei volentier fatto, ma perciò che qual fosse la cagione perché le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva senza questa rammemorazione dimostrare, quasi da necessità constretto, a scriverle mi conduco. Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1348, quando, nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogni altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza. La quale, per operazione de corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'innumerabile quantità de viventi avendo private, senza ristare d'un luogo, in uno altro continuandosi verso l'occidente, miserabilmente s'era ampliata. E in quella, non valendo alcuno senno né umano provvedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da ufficiali sopra ciò ordinati, e vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo, e molti consigli dati a conservazione della sanità, e ancora umili supplicazioni, non una volta ma molte, e in processioni ordinate in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell'anno predetto, orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti. In miracolosa maniera a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte, ma nascevano nel cominciamento d'essa a maschi e alle femmine parimente, o nell'anguinaia, o sotto le ditella, certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come un uovo, e alcune più e alcune altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E come il gavocciolo primieramente era stato, e ancora era, certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno. A cura delle quali infermità, né consiglio di medico, né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto. Anzi, o che natura del malore non patisse, oh, che la ignoranza dei medicanti, de quali, oltre al numero degli scienziati, così di femmine come d'uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo. Non conoscesse da che si muovesse, e per conseguente debito argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi, quasi tutti

E così come il dicevano, il mettevano in opera al loro potere, il giorno e la notte, ora a quella taverna, ora a quell'altra andando, vivendo senza modo e senza misura, e molto più ciò per l'altrui case facendo, solamente che cose vi sentissero che lor venissero a grado o in piacere. E ciò potevan far di leggere, perciò che ciascun quasi non più viver dovesse, aveva sì come se le sue cose messe in abbandono, di che le più delle case erano divenute comuni, e così l'usava lo straniere, pure che a esse s'avvenisse come l'avrebbe il proprio signore usate. Glossario. La quale essa porta nella sua fronte. Fronte. È voce semanticamente dotta, che deriva dal latino e significa nel suo principio. Indica ciò che è posto davanti, in posizione avanzata. Qui ha accezione soprattutto locativa, significa propriamente nel suo principio. E alle femmine parimente, o nell'anguinaia, o sotto l'editella, certe... Nell'anguinaia. È una parola che indica la parte dell'inguine, dal latino inguinalia. La presenza dell'articolo tradisce il passaggio del termine nella lingua volgare. Sotto l'editella. Significa sotto le ascelle, dal latino tardo titillus, deverbale da solleticare, titillare. E il cavo dell'ascella notoriamente soffre il solletico. Ne crescevano come una comunal mela. Altre come un... Comunal. Equivale a consueto, comune. Nel latino tardo era usato comunalis, come di cosa che appartiene alla comunità. Risulta cioè di uso comune. Per conseguente, debito argomento non vi prendesse... Argomento. È un termine dai vari significati. Qui significa rimedio, accorgimento. E in tal senso risulta usato anche da Dante, da Guittone, da Francesco da Barberino. Gittati nella via pubblica e avvenendosi a essi due porci. Avvenendosi. Forma riflessiva del verbo avvenire, usata nel senso di imbattersi, cioè andare incontro. Vola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, come se veleno. Avvolgimento. È un derivato da avvolgere, dal latino advolvere, ed equivale comprensibilmente a giravolta. In questo caso ha proprio il senso di convulsione. Di famiglia rimasti stremi, che ufficio alcuno. Stremi. Dal latino extremus. È termine usato dal Boccaccio in diverse accezioni. Qui vuol dire privi, manchevoli. Altrove equivarrà a miseri, gretti. Quanto i crimini nel vere, e nell'altra dissoluzione allargandosi quanto i secondi. Dissoluzioni. È un latinismo. Come dissoluzio equivale a dissipatezze. Il realismo boccacciano si alimenta largamente di tecnicismi, siano essi dotti o popolari. Ne abbiamo un primo esempio significativo, qui nell'introduzione, nell'ammirabile descrizione della peste, attraverso il lessico medico. Certe enfiature, le quali i volgari nominavan gavoccioli. Un realismo libresco in questo caso, quello del Boccaccio. La fonte è precisa. Giovanni Villani. Apparendo nell'anguinaia e sotto l'editella certi enfiati chiamati gavoccioli. E il termine gavocciolo, per bubbone della peste, arriverà fino all'edizione dei Promessi Sposi del 1827. Scorse un sozzo gavocciolo d'un livido paonazzo. Per cedere, solo in quella del 1840, al meno arcaico bubbone. Vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo.